America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Una città in lutto, una nazione in lutto, una veglia funebre ieri notte a Newtown, alla Trinity Episcopal Church in Connecticut, per le vittime della strage di Sandy Hook, la scuola elementare del Connecticut, dove Adam Lanza, un ventenne evidentemente impazzito, ha ucciso 20 bambini. Pensate, avevano tutti fra i 6 e i 7 anni, 6 insegnanti che cercavano di proteggerli. Alla veglia di ieri sera, commossa e commovente, è intervenuto anche il presidente Barack Obama con un discorso molto sentito, ma anche con un messaggio forte per un paese che vuole, deve essere rassicurato. Sentiamolo. We can't accept events like this as routine. Are we really prepared to say that we're powerless in the face of such carnage, that the politics are too hard? Are we prepared to say that such violence visited on our children year after year after year is somehow the price of our freedom? Avete sentito la voce ferma del presidente? In questo momento non toccava le note più emotive di questa veglia alla quale ha partecipato tutto il paese, perché oltre ai 300 che erano dentro la chiesa c'erano poi migliaia di persone che ascoltavano fuori e milioni di persone in tutta America che seguivano la diretta televisiva. Il presidente dice che non ci si può rassegnare all'idea che questi episodi di violenza diventino una routine. Si domanda, dobbiamo forse dire che siamo impotenti davanti a una carneficina di questo genere, che le complicazioni per cambiare le leggi sono insormontabili? Insomma, la sua è una domanda forte, una domanda sentita. Sappiamo quanto potenti sono le lobby che fanno capo alle aziende che producono armi, quanto è potente la NRA, la National Rifle Association, e per il presidente a questo punto non c'è più possibilità di non uscire allo scoperto, perché dopo gli eccidi in Arizona, in Colorado, Aurora, in un cinema, gli eccidi di Columbine anni fa, di Virginia Tech, infine dopo la strage di venerdì di bambini in una scuola elementare del Connecticut, non si può più aspettare. E Obama ha promesso di cambiare, ha promesso di portare al paese delle nuove leggi, di farlo nelle prossime settimane, mobilitando tutto il potere a sua disposizione in modo, come dire, quasi trasversale, perché non ha parlato soltanto delle leggi, ma ha parlato di una mobilitazione degli insegnanti, dei poliziotti e di psicologi per creare veramente un movimento che consenta di fare qualcosa. Ma come vi ho detto, c'è stata anche la parte emotiva in questa serata molto drammatica, molto sentita. Obama aveva incontrato tutti i familiari delle vittime individualmente, a un certo punto ha scandito tutti i nomi dei bambini uccisi e delle vittime. È stato il momento più commovente, è stato un momento che ha portato lacrime in sala e devo dire fra i milioni di americani, fra tutti coloro che hanno seguito questo evento straziante in diretta televisiva. E poi il conforto delle invocazioni religiose. Vi ho fatto ascoltare il rabbino Shaul Praver, c'era anche un bambino ebreo di 6 anni fra le vittime. Praver ha intonato la preghiera funebre di Almalei Rahamin, un canto evocativo, è stato ascoltato dalla sala in piedi, insomma sembrava che ci fossero davvero dei brividi, un silenzio profondo, ma in questa cerimonia interreligiosa hanno poi parlato e pregato metodisti, musulmani, Bahi, che è una religione orientale, anglicani, cattolici. Ha parlato Kathleen Adam Shepherd, che è il rettore della Trinity Episcopal Church, la chiesa episcopale dove si è tenuta appunto la cerimonia di ieri. Sentiamola. I know that Newtown will prevail, that we will not fall to acts of violence. It is a defining moment for our town, but it does not define us. Avete sentito un tono fermo deciso. Kathleen Shepard dice: so che non cederemo agli atti di violenza, so che prevarremo qui a Newton e che questa città non sarà definita da questo momento orrendo, ma dagli atti di amore, di coraggio e di eroismo che abbiamo vissuto in quelle ore drammatiche. The worst grade school shooting in US history, at least 27 dead, 20 children, 7 adults, including the principal. And the gunman killed himself. Ieri abbiamo avuto altri dettagli di quello che è successo in quelle ore drammatiche in questa piccola scuola di un paesino da cartolina, un paesino ideale dei sobborghi americani. Le televisioni sono impazzite, si sono date un grande affare, le agenzie, centinaia di giornalisti sono piombati a Newtown, le dirette televisive, gli show di ieri del mattino e quelli di questa mattina sono stati condotti direttamente da lì. E fra i reportage abbiamo avuto, vi dicevo, altri dettagli, per esempio gli atti di eroismo. Il preside della scuola, Don Hochsprung, 47 anni, pensate che ha cercato di fermare l'assassino, si è lanciata contro di lui, una donna forte, decisa, aveva fatto appena un tweet poche ore prima mostrando le foto degli album dei ragazzi che si preparavano al Natale, pensate. E l'eroismo di Mary Sherlock, una psicologa di 56 anni che anche lei ha cercato di aiutare Hochsprung e sono state uccise sul colpo da questo assassino. Poi c'è stato il gesto di Victoria Soto, che appena 27 anni, un'insegnante di prima elementare, aveva cominciato quest'anno, era arrivata a Newtown da poco, era felice perché sentiva che quella era la sua missione. Beh, quando si è trovata davanti a questa situazione drammatica, ha nascosto in un armadio alcuni bambini, poi è tornata in aula e quando ha visto che questo folle assassino sparava, ha fatto da scudo ad altri bambini e naturalmente è morta, è stata uccisa sul colpo da questa carabina semiautomatica che viene usata in Afghanistan dall'esercito americano. Però alcuni bambini che erano dietro di lei si sono salvati. Ecco, sono questi gesti su cui si aggrappa un po' l'America oggi, cerca di vedere il lato buono di questo paese. Resta il mistero della motivazione, perché insomma cosa può aver portato questo ragazzo, questo Adam Lanza, a fare quello che ha fatto, un eccidio orrendo. Sappiamo, sempre nella ricostruzione abbiamo il dettaglio che è andato prima a casa, ha trovato la madre e ha sparato in faccia alla madre vari colpi di pistola dopo aver preso le sue armi. La madre poi, tra l'altro, questo è un altro mistero, una collezionista d'armi, e sembra che lo avesse portato con lei a delle esercitazioni al poligono di tiro. E insomma Lanza poi ha rubato queste armi, è andato alla scuola, ha sfondato una porta di vetro e ha cominciato a uccidere. Ha smesso soltanto quando sono arrivate le forze dell'ordine, a quel punto si è suicidato. A bill to ban assault weapons. It will ban the sale, the transfer, the importation and the possession, not retroactively, but prospectively. Ecco, devo dire, davanti a questa situazione resta il mistero di cosa poi farà l'America, perché abbiamo sentito l'impegno di Obama, vi ho fatto ascoltare il senatore Dianne Feinstein che ieri mattina ha annunciato che già a partire da oggi comincerà a proporre una legge su cui lavorava già da un anno, che vuole introdurre dei controlli assolutamente restrittivi sulle possibilità di armarsi. Ci saranno naturalmente le possibilità di comprare pistole e fucili da caccia e così via, ma basta alle armi pesanti, alle armi come quella che ha usato Lanza per uccidere i bambini. Il problema è che c'è un ostacolo costituzionale. Il secondo emendamento della Costituzione autorizza la formazione di milizie e tutela il diritto ad essere armati. La Corte Suprema americana nel 2010 e nel 2008 ha ribadito che questo diritto va rispettato. Sappiamo che c'è la lobby fortissima della destra repubblicana e di coloro che sostengono l'NRA, la National Rifle Association, l'associazione dei portatori d'armi. Sarà una battaglia feroce, ma credo davvero che l'umore questa volta sia cambiato, che la maggioranza del paese non potrà più tollerare che non si faccia nulla, come ha detto il presidente Barack Obama. La sfida